Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata in compagnia di, signore e signori, Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera. La scorsa volta prigioniero, vi ricordate, di un aereo in ritardo, aveva fatto capolino in trasmissione negli ultimi 5 minuti, ma questa volta arriva in bici, l'ha promesso. Non perdetevi dunque il suo punto di vista sui tanti fatti di questa settimana. E aspetto anche il vostro, mi raccomando, sabato alle 14 a Non ci sono più le mezze stagioni su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.